Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Io devo andare su Elysium. Chi possiede questo ha il potere di riprogrammare l'intero sistema di quel luogo. Buongiorno, buongiorno e buon sabato a tutti. Avete appena ascoltato una clip tratta da Elysium, un avveniristico film sul futuro remoto, ambientato nel 2154, il futuro remoto dei robot, dove il protagonista Matt Damon viene rivestito da un potentissimo esoscheletro che gli permette di andare sul pianeta artificiale Elysium a combattere una battaglia epica per la sua vita. Gli esoscheletri sono un pilastro della fantascienza. L'esoscheletro è un apparecchio cibernetico esterno in grado di potenziare le capacità fisiche, forza, agilità, velocità, potenza dell'utente che ne viene rivestito e che grazie a questo viene ad avere una muscolatura artificiale. Ecco, dicevamo, gli esoscheletri sono considerati un pilastro della fantascienza, ma pochi sanno che ci sono già e che presto arriveranno nelle fabbriche. E ne parliamo con Maurizio Cremonini di Comau, che è una delle prime tre aziende al mondo di robotica e sta facendo un progetto sugli esoscheletri che permetterà di avere sul mercato i primi esoscheletri, credo fra 6-8 mesi, ce lo spiega meglio lo stesso Cremonini. Allora ci dica, buongiorno, di questi esoscheletri che cosa succede, che cosa state facendo? Buongiorno, sì, noi abbiamo intrapreso questa nuova area di sviluppo nell'ambito ovviamente di una larga accezione del termine di robotica da un certo periodo, con l'aiuto soprattutto dell'Istituto Superiore Sant'Anna di Pisa, che aveva le competenze giuste nella biorobotica e nella meccanica applicata al corpo umano. Abbiamo cominciato con una fase di innovazione ragionando su quello che potevano essere le aree di applicabilità e abbiamo cercato anche di scomporre il mondo degli esoscheletri, abbastanza ampio, abbastanza anche complesso per questioni di tipo tecnologico, ma anche per la possibile articolazione sulla definizione di diversi. Ecco, come sarà fatto questo esoscheletro che voi vi preparate a proporre sul mercato? Il primo esoscheletro che arriverà sul mercato è un esoscheletro per l'aiuto degli arti inferiori e in parallelo stiamo sviluppando anche un esoscheletro per gli arti superiori. Cosa farà questo degli arti inferiori? Quello degli arti inferiori sarà un oggetto che sarà di aiuto all'educazione fisica in prima battuta, ma anche può avere delle applicazioni in ambito industriale per aiutare le persone che lavorano in fabbrica nel ridurre la fatica, per aiutare su lavori ripetitivi che possono in qualche modo indurre ad errori, ad aiutare per posizioni non ergonomiche o per attività piuttosto logoranti. Praticamente saranno delle sorte di calotte che ricopriranno le gambe e che potranno servire sia agli operai riducendo la loro fatica e sia alle persone che hanno problemi fisici, corretto? È corretto. Questa è una grande innovazione, soprattutto per chi ha problemi fisici. È così, e soprattutto sfruttando le competenze della robotica si possono immaginare anche la programmazione di questi esoscheletri in modo tale da poter far operare l'esoscheletro in funzione di supporto ai movimenti delle persone quando si tratta di rieducazione oppure di persone con alcune disabilità. E invece la parte superiore quando arriverà sul mercato e come sarà fatta? Ma verosimilmente comunque nel 2018 usciremo con una soluzione per gli arti superiori. In questo caso sugli arti superiori pensiamo ad un oggetto che non avrà alimentazione, quindi non avrà motori elettrici, ma sarà solo, almeno in prima battuta, di aiuto alle persone prevalentemente nel mondo del lavoro, come dicevamo prima, riducendo la fatica e dando la possibilità di aiutare l'uomo in posizioni particolarmente non ergonomiche. Ecco, e quindi nel giro di qualche anno i pochi operai che rimarranno nelle fabbriche saranno una specie di super operaio completamente rivestito da un esoscheletro. Alcuni di loro probabilmente sì, non solo nelle fabbriche, lei si immagini magari in situazioni di manutenzione di impianti esterni, mi viene in mente il mondo per esempio dell'energia, dove potrebbero esserci diversi possibilità di applicazione. Ma la cosa che ritengo più affascinante è l'applicazione militare, perché grazie agli esoscheletri potremmo avere dei super soldati dotati di una forza incredibile, e questo potrebbe veramente cambiare gli scenari. Io penso a un soldato che va in Medio Oriente nelle situazioni calde, non è che quei guerriglieri lì possono avere esoscheletri così potenti. Beh, sicuramente è un futuro che si può prevedere, al momento noi non ci stiamo orientando ovviamente su quest'area, però sicuramente tutto quello che in qualche modo può aiutare l'uomo in situazioni di grossa difficoltà, di fatica, di posizioni non particolarmente diciamo ergonomiche, sicuramente è l'area su cui noi stiamo lavorando. Senta, voi state anche molto lavorando sulla robotica collaborativa, qui devo aprire una parentesi, spiegare ai nostri ascoltatori che ci sono due tipi di robot: i robot di servizio, che svolgono mansioni automatizzate e le svolgono senza interagire con l'uomo all'interno di particolari zone della fabbrica, e i robot collaborativi, che collaborano con l'uomo, raccolgono pezzi da lui, gli porgono dei pezzi. Per ora i robot collaborativi sono la minoranza, ma voi avete un progetto che si chiama Progetto Aura, che si propone di lavorare su questo. Ce lo può raccontare brevemente? Sì, il nostro progetto Aura è legato alla conversione di robot industriali, diciamo tra virgolette pericolosi, a robot invece collaborativi, e quindi che possono operare in piena sicurezza con la presenza dell'uomo. Il nostro orientamento è di sviluppare dei robot di grandi dimensioni, che siano collaborativi, perché comunque i robot collaborativi esistono da alcuni anni, diciamo da 2 o 3 anni, ma sono tutti sviluppati in un contesto di piccoli robot che fondamentalmente... Massimo 10 kg, credo. Sì, esattamente. Il vostro potrebbe collaborare con l'uomo arrivando a muovere anche 100 kg? Sì, esattamente, sì. Abbiamo già sviluppato la piattaforma da 100 kg e ne stiamo sviluppando una ancora più alta, diciamo intorno ai 200 kg. Accidenti, è un ambizioso programma, e pensate che arriveremo anche, e ci arriveremo brevemente, a robot che si potranno comandare con una app sul proprio telefonino, ma di questo ne parliamo nella seconda parte della trasmissione. Restate con... Fabbrica 2.4. Io devo andare su Elysium. Chi possiede questo ha il potere di riprogrammare l'intero sistema di quel luogo. Ancora una clip tratta da Elysium, che non ha solo il pregio di mostrare gli esoscheletri e alcune innovazioni che nel 2014 venivano ritenute da fantascienza e che invece presto vedremo sul mercato. Ti fa anche vedere quali sono i rischi l'evoluzione tecnologica non viene accompagnata da adeguate azioni di welfare, perché il film prefigura un'umanità dolente, povera, sottomessa ai robot e priva di risorse, che resta sulla Terra, mentre invece c'è questa Elysium, dove che è una specie di pianeta artificiale o satellite, dove ci sono dei ricchissimi che possono fare una vita meravigliosa con tutti i privilegi, anche con le macchine che curano il cancro. Ecco, una forte sperequazione sociale è il rischio che potrebbe esserci con l'arrivo dell'Industria 4.0, dell'automazione diffusa, dei software di intelligenza artificiale e di altri benefici della tecnologia. La tecnologia, al contrario di quello che pensano gli stupidi e gli ignoranti, non si può fermare, perché nel momento in cui un concorrente di un'azienda ha delle munizioni tecnologiche, ha degli oggetti competitivi tecnologici, anche gli altri devono averli, se no vengono esclusi dal mercato. Dove si può lavorare sul welfare e creando una diversa condizione del lavoro. Altrimenti ci saranno sì problemi sociali. Va anche detto che sul breve e medio termine la tecnologia, tutte queste innovazioni, creeranno molti, ma molti più posti di lavoro di quanti non ne distruggeranno, perché c'è bisogno di competenze nell'automazione, nella meccatronica, nell'industria, nell'analisi dei big data, che sono competenze in primo luogo tecnologiche, ma anche competenze trasversali, perché per l'analisi dei big data magari potranno essere utili laureati in filosofia, e quindi ci saranno molti posti di lavoro in più. Il problema è che i posti di lavoro non saranno gli stessi per le stesse persone che contestualmente verranno estromesse. Va anche aggiunto che le innovazioni tecnologiche, in particolar modo l'automazione, aumenta la produttività. Produttività vuol dire più ricchezza, quindi più investimenti, quindi più lavoro. Ho detto bene, Cremonini? Io la seguo perfettamente, perché è quello che noi riteniamo essere l'evoluzione del nostro mondo dell'automazione di fabbrica. Avremo bisogno, sempre più bisogno, di gente competente, gente che conosca la fabbrica e gente che conosca l'automazione. Però quelli che svolgono mansioni ripetitive rischiano, anzi sicuramente verranno esclusi, andranno a casa. Verranno sostituite le diciamo attività ripetitive, dove tra l'altro il contributo dell'uomo è a oggi un contributo non di intelligenza e di competenza, mentre interverranno tante persone che invece con la competenza e con la capacità di poter decidere gestiranno in maniera più intelligente la fabbrica. Il lavoro non ce lo rubano i robot, il lavoro ce lo ruba un'istruzione inadeguata. Tra l'altro, sui robot, Millennium, che è il mensile del Fatto Quotidiano, ha appena pubblicato un numero speciale con una lunga cover story. Ci sono delle cose interessanti che meritano di essere lette. Peccato che poi la copertina titoli "Licenziati da un robot", che poi è un titolo che non corrisponde a quello che c'è scritto all'interno e che fa una concessione alla demagogia e luogo comune che, francamente, secondo me, i colleghi se la potevano risparmiare. Così come vedo poco praticabile quello che dice Peter Gomez nell'editoriale di apertura, quando propone lavorare meno, lavorare tutti. La rivoluzione dei robot trasforma il vecchio slogan in una possibile soluzione. Secondo me la soluzione non è questa, perché nessuno che fa mansioni intellettuali accetterà di lavorare 4-5 ore al giorno, perché il lavoro è una cosa che ci definisce e che ci posiziona nella società. Io non vedo uno che comanda, che guadagna tanto, che prende decisioni, che è colto, che lavora 4 ore e poi va a fare sport per lasciar lavorare gli altri. È assolutamente impraticabile. Forse sarebbe meglio inventare nuovi lavori per chi non è in grado di sviluppare mansioni ad alto contenuto intellettuale, per esempio lavori nel cura del territorio, lavori nella nella geologia, lavori nei beni culturali, lavori nei musei, lavori nella cura delle persone. Quindi reinventare il concetto di lavoro dando opportunità in queste aree che sono importanti. L'Italia ha un dissesto idrogeologico pazzesco, forse molti lavoratori estromessi dalle fabbriche per i robot potrebbero essere impiegati dallo Stato in questi problemi. Lei che dice? Sono d'accordo, e stiamo osservando come altri settori, non direttamente diciamo di fabbrica, stiano orientandosi verso l'utilizzo di nuove tecnologie anche appunto nel mondo agricolo, nel mondo diciamo dell'energia, anche proprio nella generazione, e la stessa cosa sta avvenendo un po' da tutte le parti, compreso ovviamente settori molto vicini a quello che è la diciamo la gestione dell'ambiente. Ma ci spieghi un po' invece come funziona questa cosa del robot comandabile da una app? Ma non c'è nulla di particolarmente nuovo. L'app è venuta fuori con l'esigenza di ridurre la tecnologia, e la tecnologia piuttosto costosa, che è parte del corredo del robot. Il robot ha bisogno di un computer che lo gestisca, molto semplicemente, e il computer ha bisogno di un terminale. L'idea è quella di sostituire il terminale unico e dedicato al singolo robot con un applicativo Android installato su un qualunque pad o su un qualunque smartphone per poter pilotare il robot direttamente. Quindi l'operatore, quindi la persona, può programmare, modificare le traiettorie, modificare l'applicazione utilizzando un semplice smartphone o un iPad, perché è ancora meglio, e connetterlo di volta in volta ai singoli robot. E certo, perché normalmente adesso a fianco di ogni robot c'è un terminale, e ogni robot ha il suo terminale con il suo operatore. Invece così, se il terminale diventa portatile e sta nello smartphone o sta nell'iPad, l'operatore con lo stesso terminale può muoversi e controllare più robot. Esattamente così, al punto che siamo arrivati anche a sviluppare degli applicativi molto semplici di controllo addirittura su smartwatch, quindi piccolissimi applicativi con poche domande, poche risposte leggibili su un video della dimensione di un orologio. Se volete dire la vostra su questi argomenti potete scriverci a fabbrica@radio24.it, però vi prego non scrivete stupidaggini, perché non è che se uno legge le mail del pubblico deve poi dare fiato a tutte le scemenze che arrivano. Scrivete qualcosa di intelligente. Io sono supersonico, frullino tecnologico. Io sono Tontolino, frullino contadino. Ecco, avete appena sentito un vecchio spot della Colussi, che è un marchio mitico della nostra infanzia, è un marchio mitico tuttora nel settore dei biscotti, e questo spot mi è rimasto particolarmente impresso perché parla del frullino tecnologico. Beh, il frullino tecnologico è arrivato. La Colussi è una delle pochissime aziende che ha annunciato 125 licenziamenti, poi scesi 85, per lasciare spazio ai robot. Ora, non è che non sia mai successo, è sempre successo che il robot riduce le mansioni ripetitive e la gente viene pian piano estromessa, ma è la prima volta che si dice nero su bianco: 85 persone devono andare a casa perché ci sono i robot, e i licenziamenti sono contestuali a un nuovo programma di investimenti da 80 milioni di euro. Io non so se è la prima volta in assoluto in cui si esplicita così la faccenda, però è una delle prime volte, la prima volta per un marchio importante, e nelle prossime puntate cercheremo di seguire questa partita. Però devo dire, la colpa del destino di queste persone non è, secondo me, dell'azienda, che ha il dovere di investire, di cavalcare le nuove tecnologie. La colpa è dell'assenza di un adeguato sistema di istruzione, dell'assenza di un adeguato sistema di welfare e di programmi di riqualificazione. Il lavoro non ce lo rubano i robot, il lavoro ce lo ruba un'istruzione inadeguata, e spetta al pubblico perseguire delle politiche attive o anche dare cose come il salario di cittadinanza per farci uscire da questo impasse, perché noi abbiamo bisogno di investimenti nelle tecnologie. Che dice lei, Cremonini? Sono perfettamente d'accordo, ritengo che il ruolo delle istituzioni in questo momento sia proprio quello di capire questa esigenza, visto che comunque l'Italia è famosa ed è una delle più grandi nazioni in questo contesto, deve trovare un ruolo, proprio le istituzioni devono trovare un ruolo nella riqualificazione delle persone, della creazione di posti di lavoro legati alle competenze che sono quelle che servono per l'evoluzione dell'automazione di fabbrica. Stando nel mondo della fabbrica ci rendiamo conto che spesso abbiamo bisogno di fare formazione interna, perché non è facile trovare competenze di questo genere al di fuori. Quindi, comunque sia, l'avvertenza Colussi e questo annuncio così esplicito è una notizia che, a mio avviso, rimarrà nei libri di storia. Adesso dobbiamo chiudere, però ci saranno contenuti speciali e potete, andando sul sito di Fabbrica 2.4, ascoltare il resto di questa conversazione. Però gli ascoltatori li devo salutare. Viva le fabbriche, viva i robot, viva l'acciaio, buon sabato a tutti!